può fare. L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. Buonasera cari ascoltatori, 18.05 minuti, ben ritrovati, venerdì pomeriggio, staremo insieme fino alle 20.30, cominciate subito a prenotare il vostro intervento 800 24 00 24 e questa sera, ve lo dico subito, cerchiamo il fine settimana un personaggio della settimana e come sempre mettiamo anche in palio un piccolo montepremi. Il nostro primo indizio per quanto riguarda il personaggio che andiamo cercando è che ha raggiunto un traguardo. Vai! Anche le parole del deputato dei 5 Stelle, quando ipotizza che qualcuno si possa far saltare imbottito di esplosivo in metropolitana, io da milanese che la metropolitana la uso tutti i giorni dico occhio, occhio prima di dire certe sciocchezze, perché qua c'è gente, chi taglia la testa in diretta Twitter a un essere umano non è al nostro livello, è un altro tipo di livello, e quindi andiamoci piano parlando di attentati in metropolitana. E dico a Renzi sveglia, sveglia. Noi siamo dentro un'alleanza internazionale che sta dando una mano, noi abbiamo portato 6.530 con gli aiuti umanitari, consegneremo le armi a chi combatte, ai curdi, agli iracheni che combattono contro il terrore e il terrorismo. Certo si può e si deve fare di più, ma quello che credo che sia fondamentale è dire che per una volta la comunità internazionale c'è. E noi abbiamo immaginato così uno scontro a distanza tra Salvini, che è il leader della Lega, che è in vacanza ma continua a twittare, a fare interviste, a rilanciare polemiche, non si ferma un attimo, e Matteo Renzi, che qualche giorno di vacanza se l'è preso, ma anche lui naturalmente rilascia qualche dichiarazione. Sfida incrociata sulla presenza degli immigrati in Italia, e nel mirino di Salvini c'è Mare Nostrum. Non si può con una mano dire armiamo i cristiani massacrati dagli estremisti islamici in Iraq e con l'altra mano firmare autorizzazioni per moschee portate avanti da associazioni che si rifanno agli stessi che dall'altra parte massacrano. Mettetevi d'accordo. Siamo gli unici che hanno un'operazione come Mare Nostrum, che causa morti più che salvare vite e ha portato 100.000 persone in casa nostra di cui sappiamo poco o niente, e quindi mentre Renzi va in Iraq a dire attenzione c'è pericolo, oggi ne sbarcheranno 1.500, domani altri 1.500, dopodomani altri 1.500 ancora. Credo che alcune chiacchiere d'agosto della politica siano più o meno simili alle chiacchiere dei direttori sportivi quando parlano dei giocatori che vanno acquistati. Chiacchiere, poi il calciomercato si chiude con poche notizie. Ecco, lo stesso modo per la politica. Insomma, Renzi cerca di abbassare i toni dicendo che la politica ad agosto è come il calciomercato, chiacchiere, poi non succede niente. Intanto però, a proposito delle famose, ormai famigerate parole di Battista, avete sentito anche Salvini, che è stato tra i primi a saltargli addosso. C'è la presa di posizione dell'ambasciatore iracheno in Italia, che dice a Salvini, Di Battista, è impossibile dialogare con i terroristi, però se lui vuole intavolare una discussione con l'ISIS, il suo visto per venire in Iraq è pronto. Cioè l'ambasciatore iracheno invita Di Battista ad andare lì a dialogare. Naturalmente lo stesso invito vale anche per chi vuol far la guerra, cioè se c'è tutta questa voglia di andare a far la guerra, allora andate a far la guerra, insomma, perché poi è facile parlare. Ma la guerra purtroppo è un'altra cosa. Questo è Paolo Becchi, l'ideologo, non so quanto a questo punto ancora voluto dal Movimento 5 Stelle, che rincara la dose e dice: mentre l'Italia, grazie all'euro, affoga nella depressione, abbiamo deciso di occuparci del Kurdistan. Arma i curdi, poi però non lamentarti se le due italiane attualmente in mano all'ISIS, alle due italiane venga tagliata la gola. Parole pesanti, ancora sensazione di leggera follia, scrive Becchi sul suo tweet: armiamo i curdi in Iraq per combattere contro quelli che armiamo in Siria per destabilizzare il regime. E questa è una cosa su cui, secondo me, l'abbiamo già detto in questi giorni, varrebbe la pena discutere. 800 24 00 24, Salvini ce l'ha anche con Conte però, Io sono tifoso di calcio, appassionato, milanista. È un insulto che un allenatore pigli 4 milioni di euro all'anno per allenare 11 persone che vanno in campo a tirare un calcio al pallone. Non si tratta di fare accordi più o meno segreti con nessuno. C'è una maggioranza, la maggioranza fa delle proposte e si confronta con tutti, perché la giustizia non è un tema che riguarda soltanto la maggioranza, ma la maggioranza ha l'onere di fare delle proposte e di portarle in Parlamento. Questo è il ministro Orlando che nega che ci sia un accordo sottobanco, stile patto del Nazareno, per quanto riguarda la riforma della giustizia, tavolo al quale non si sono voluti sedere, lo abbiamo già detto anche ieri, intervistando Tofalo, il Movimento 5 Stelle, e i pentastellati. Questi è Coletti, sentiamo. Oggi non siamo andati dal ministro Orlando perché per parlare di giustizia non servono slogan, tweet o slide, serve serietà e volontà politica. Abbiamo aspettato 5 mesi, quando il ministro e il governo Renzi avranno delle proposte, ci sederemo per parlarne. Sintesi, ci saranno nuove tasse tornando? No, no. Anzi, come abbiamo fatto con gli 80 euro, che sono 1000 euro l'anno di riduzione di tasse a 11 milioni di lavoratori, questo è, noi abbiamo ridotto le tasse per 1000 euro più o meno a testa a 11 milioni di persone, così come abbiamo fatto con questa fascia di popolazione, cercheremo di farla con altre fasce di popolazione, di ridurre ulteriormente le tasse. E Renzi sfida così i sindacati, autunno caldo, bene, vedremo, è stata un'estate ballerina, ci può stare anche l'autunno caldo, non ci saranno nuove tasse, non si sa se per troppe tasse o per altri motivi, intanto però è successo ancora, questa volta a Frosinone, che un'azienda italiana abbia chiuso all'improvviso, ma la notizia è non tanto la chiusura di un'azienda, che purtroppo di questi tempi non è quasi più una notizia, ma che abbia chiuso all'improvviso la notte di Ferragosto senza avvertire nessuno, la comunicazione sindacati è arrivata il giorno dopo, quando i lavoratori si sono presentati lunedì 19 a lavoro, ma l'azienda non c'era più. Stiamo parlando della Italia Alimentari di Pagliano, in provincia di Frosinone. Tra un po' cercheremo di capirci anche qualcosa in più. Delocalizzazione o fuga improvvisa? Crisi aziendale? Non si sa, non c'è una comunicazione, e questa azienda con 40 dipendenti però ha chiuso. Un'altra grana tra le tante in questo momento di stagnazione, di recessione dell'economia italiana, per l'autunno caldo che aspetta sicuramente il governo e il suo Presidente del Consiglio. Una monetina sull'altra, si possono raggiungere anche 60-80 euro al giorno facendo che cosa? Facendo l'elemosina, per esempio davanti a un supermercato. Ecco perché un supermercato di Catania ha messo un cartello davanti all'ingresso invitando i clienti a non fare l'elemosina agli zingari, perché dice abbiamo notato che in una giornata possono mettere insieme fino a 80 euro, una cifra considerevole che, scrive il supermercato, nemmeno un operaio potrebbe guadagnare in un giorno. Quindi, cari clienti, fate a meno di fare l'elemosina agli zingari. L'Associazione Nazionale Rom ha però fatto una richiesta ufficiale per togliere questo cartello, ha scritto, credo anche addirittura al governo, perché parla per questo cartello di discriminazioni razziali. E noi abbiamo chiesto un commento a Marcello Zuinisi, che è rappresentante legale dell'Associazione Nazione Rom. Buonasera. Sì, buonasera. Io le chiedo subito questo: perché parlate per questa iniziativa di questo supermercato di una cosa razzista, di una cosa discriminatoria nei confronti dei Rom? Non è vero che ci sono molti zingari davanti ai supermercati che fanno l'elemosina? Allora, innanzitutto io la inviterei a abbandonare questo linguaggio della parola zingaro, perché è un termine. Un Vabbè, però adesso non facciamo subito polemica, Zuinisi. Io posso dire anche cosa devo dire, Rom? Perché... Esatto, Rom sinti e camminanti. Vabbè. Sono il linguaggio che correttamente viene usato, sì, nell'Unione Europea. L'Italia, è giusto anche usare le parole giuste. Si dice anche zingari, perché zingari invece ha una connotazione che lei rifiuta, perché è volgare, perché è offensiva, secondo lei? Assolutamente sì. In Italia ha assunto una connotazione altamente negativa e offensiva. Però si va a individuare con quella parola, mi aiuti lei allora a arrivarci, quelle persone di etnia Rom e Sinti che però, diciamo, anche hanno uno stile di vita particolare, che vanno in giro vestiti in un certo modo, che vivono per esempio di elemosina e che vivono nei campi nomadi. Ci sono altri che hanno stili di vita diversi, allora lì non si usa magari la parola zingari. Sarà sbagliato, ma sono anche due mondi diversi, o no? Il mondo che noi viviamo è unico, sì, è una sola terra. In questo mondo ci sono delle popolazioni, che sono i Rom, Sinti e Camminanti, sì, che in Italia appartengono agli strati più poveri della popolazione. Mm-hmm. Questo fatto non è determinato da una scelta da parte dei cittadini Rom, Sinti e Camminanti di essere poveri, per cui voler vivere in maniera isolata dal resto della popolazione. Io ho usato la parola zingari, togliamo, sì, di mezzo la parola zingari. Okay. Le chiedo perché voi avete scritto questa lettera, avete chiesto di togliere il cartello parlando di razzismo, perché quello che dice il supermercato è che semplicemente queste persone infastidiscono i clienti. Ma vede, quando una persona è esclusa dalla società, ovvero ha difficoltà di accesso al lavoro, alla scuola, alla salute, alla casa, è costretta a fare l'elemosina per non morire di fame. Cioè, per migliaia di persone, quelle che avete denominato come zingari o che vediamo nelle città, chiedere l'elemosina è l'unica fonte di reddito. Allora, questo cartello è un cartello altamente demagogico. Innanzitutto, nessun Rom, Sinto riesce a raccogliere 80 euro in una giornata a fare l'elemosina. Loro però dicono che hanno fatto i conti, perché poi le persone vanno questi Rom vanno a cambiare le monetine per avere delle banconote e hanno visto che hanno raccolto queste cifre. Perché lei come fa a escludere che si possa raggiungere quella cifra lì? Ma io la inviterei a vestirsi con una... a vestirsi da povera, andare davanti a un supermercato, passare una giornata e vediamo quanto riesce a raccogliere. Ma io sicuramente non raccoglierei nulla, perché non sono abbastanza bravo probabilmente, però è innegabile che ci sia una questione, c'è una questione che ci sia in Italia, che... assoluta. L'Istat, sì, sta descrivendo l'Italia come un paese dove esistono 10 milioni di poveri. Allora, però scusi, noi... è innegabile che fare l'elemosina è una cosa che i Rom fanno, no, non è un reato, però è una cosa strutturale, cioè è una cosa che loro fanno regolarmente. Sì, esatto, è vero, è una cosa strutturale. Cioè, ci sono tanti poveri, però poi davanti al supermercato spesso ci sono i Rom e i cosiddetti zingari. Ecco perché poi sbagliando si dice gli zingari, ma perché ci stanno, sì, però lì davanti o no? Perché siamo la parte della popolazione più discriminata e esclusa dalla società, tant'è, sì, che proprio da un punto di vista strutturale l'Italia ha firmato un accordo con l'Unione Europea, andò il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, era il 5 aprile 2011, sì, accordi strutturali di inclusione del popolo Rom in Italia e in Europa. Però guardi che di casi di 12 milioni di cittadini, il 2% della popolazione europea. Ora, l'Italia, in Italia questo dato, sì, è molto ridimensionato, perché in Italia vivono lo 0,2% della popolazione italiana e Rom, per cui è un dato altamente al di sotto delle medie europee. Eppure, nonostante questo, l'Italia è l'ultimo paese in Europa in politiche di inclusione sociale. Ecco, l'ultimo. Però questo, voi dite questo, però leggendo, scorrendo un po' anche la cronaca e l'impressione che hanno i cittadini è che non sia sempre così, perché io le leggo alcune delle ultime cose che abbiamo trovato. A Piacenza 200.000 euro per il campo Nomadi, a Roma, Tor Bella Monaca, medici estivi d'estate per i bambini rom e viveri alimentari, a sempre a Roma la polemica sulle navette per portare i bambini rom a scuola, 3 milioni di euro. Cioè non è che in Italia non ci siano politiche di integrazione, però poi si continuano a vedere moltissimi rom che vivono di elemosina. Voi avete affrontato questa questione anche alcune un paio tre settimane fa con il sindaco di Firenze Dario Nardella sulla questione di Santa Maria Novella. Spesso e anche i sindaci, anche i politici danno delle informazioni non corrette, non veritiere. Ora, da un lato è vero, a Roma ad esempio lo scorso anno sono stati spesi 24 milioni di euro per diciamo l'inclusione della popolazione rom, ma questi soldi non arrivano alle famiglie rom, questi soldi vengono gestiti da organizzazioni italiane che hanno costruito un vero e proprio business. Per esempio faccia qualche nome o qualche esempio, insomma, di cui... sono 400 Caritas, Croce Rossa e via dicendo. Cioè dice che Caritas 400... e Croce Rossa fanno un business anche economico sui rom, sulla pelle dei rom. Assolutamente sì. Questa è un'accusa pesante. A Firenze abbiamo fatto accesso agli atti al Comune di Firenze, sono stati spesi 15 milioni di euro in 5 anni, venivano spesi 300.000 euro affidando questi soldi a un consorzio per accompagnare in un anno 15 bambini Roma a scuola. Ora, io ho fatto i conti, se io affittavo tre Mercedes, tre auto di lusso, io spendevo meno. Cioè, sono stati spesi male. Questo, tra l'altro, è come dire sparare sulla Croce Rossa, cioè, proprio il caso, perché sull'inefficienza della pubblica amministrazione possiamo andare abbastanza d'accordo, cioè si spendono spesso male i soldi in tanti campi. Lei dice anche negli aiuti ai Rom questi soldi vengono spesi male, però vengono spesi. Cosa deve pensare il cittadino che vede queste cose spese e poi però l'elemosina che resta? Io su questo punto vorrei capire, resta o no un elemento strutturale? A unirsi a una diciamo lotta di dignità che stiamo facendo. Perché? Perché come cittadini Rom stiamo incontrando, abbiamo incontrato il sottosegretario di Stato Franca Biondelli il 3 giugno a Roma, il 3 giugno di quest'anno, abbiamo chiesto l'avvio di politiche lavorative, noi vogliamo lavorare, vivere nelle case, ci sono tanti Rom e sinti, diciamo il 50% che vivono in Italia che sono all'interno di case, ma il 50% è completamente escluso e è un ottimo capri espiatorio, diciamo, vengono mantenuti in questa situazione le persone. Zuinisi, perché... però se voi volete fare questo, forse dovete parlare anche all'interno della vostra comunità per trovare conferma di questa volontà, perché ripeto, se c'è questa volontà da parte di ogni famiglia vorrebbe avere un lavoro, vivere in una casa, avere la possibilità di mandare i bambini a scuola. Guardi, in Italia 13.000, questi sono i dati del Ministero dell'Istruzione, ci sono 13.000 bambini rom finti iscritti nelle scuole. Lo so quante arrivano alle superiori di 13.000? 137. Ma questo, scusi, di chi è colpa? Di chi è colpa questo? Sarà colpa anche delle famiglie che non ci riportano a scuola? Le dico la media europea di inclusione scolastica è del 67%, in Italia è del 6%. Ma la media europea di chi? Dei rom in Europa? Sui rom. La media in Europa. Ma cosa deve fare il Comune di Roma per portarli a scuola se non affittare le navette, 3 milioni di euro, andarli a prendere a casa? Cosa bisogna fare? Il Comune di Roma dovrebbe attuare quelli che sono gli accordi quadro strutturali e la strategia nazionale che questo governo, fra l'altro, sta completamente violando, ovvero c'è una strategia nazionale che prevede che si formino dei tavoli dove le istituzioni locali, i comuni e le regioni si mettano a un tavolo con la rappresentanza rom, con le famiglie rom, con rappresentanti delle famiglie legalmente istituiti e avvino delle politiche di inclusione. Però scusi, questo, ma questo lei mi sta dicendo che questo non si fa, cioè tutte quelle politiche che le ho citato io vengono fatte così a caso da parte dei comuni, non ci sono questi tavoli di cui si è sentito parlare mille volte, calate sopra delle famiglie, e non c'è un tavolo che vede le rappresentanze rom legalmente istituite discutere e varare delle politiche di inclusione. Quindi al momento secondo lei sarebbe quasi meglio che non ci fossero questi finanziamenti, questi milioni di euro spesi per i rom? Assolutamente no, sarebbe meglio chiuderli questi rubinetti. Non servono a generare inclusione. I finanziamenti fino ad oggi in Italia, decine di milioni di euro, sono unicamente serviti a escludere la popolazione rom dalla vita normale, tant'è che anche a Roma stiamo invitando proprio il comune a varare un tavolo di inclusione, un tavolo con la rappresentanza no. Questo significa, noi vogliamo tutti uscire dai campi, vogliamo andare a vivere in delle case, con i soldi che sono stati spesi non ci sarebbe più un rom che vive all'interno di campi. Però scusi, campi quello che dice lei contrasta con la realtà da un certo punto di vista, perché avere una vita stabile e voler, cioè uno può anche dire io voglio fare il nomade, sto in un campo nomade, vivo di elemosina, mi becco le critiche della gente, gli sguardi brutti, ma io voglio vivere così. Sarebbe più semplice, non è così? Posso dire una cosa, il 98% dei rom che vive in Italia non è nomade, è stanziale. Questi sono sempre dati della Commissione Europea, dati ufficiali. In Italia c'è una grande disinformazione enorme, data dai politici, data da anche i media, c'è una veramente disinformazione totale sulla questione rom. Guardi, noi abbiamo chiamato per parlarne tranquillamente, quindi proprio per capirci qualcosa di più. Senta, però vabbè, alla fine come è normale, io non convinco lei forse non convince del tutto me, ma non importa, perché è giusto anche avere idee diverse e confrontarsi. Però questo, viva Dio, viva Dio. Dio, la momento di riconciliazione, la però tranquillamente però c'è una questione che io vorrei sottolineare ai cittadini. I due governi precedenti a quello attuale, ovvero il governo Mario Monti, presieduto dal premier Mario Monti e poi da Letta, hanno iniziato un percorso di veramente attuazione, diciamo, della strategia e degli accordi firmati con Bruxelles, a questo punto invece ben strutturati. Cosa sta succedendo? Era un superamento totale di quelle che erano le politiche varate dal precedente governo Maroni-Berlusconi, che fecero un decreto di emergenza di sicurezza. La questione Rom era diventata una questione di sicurezza nazionale. Questo, fra l'altro, legge che è stata cassata dall'Alta Corte Costituzionale, è stata diciamo soppiantata da una iniziale volontà di procedere a attuare questi accordi europei. Cosa succede oggi? Succede che il nuovo governo di Matteo Renzi e di Angelino Alfano come Ministero degli Interni sta riattuando delle politiche di sicurezza, cioè sta rialimentando nell'opinione pubblica una immagine distorta della realtà rom. Vabbè, comunque Zunisi, non torniamo su questo, perché lei pensa che l'integrazione venga dal governo, io penso che l'integrazione possa venire anche dalle comunità rom, cioè ci vuole uno sforzo da tutte e due le parti. Abbiamo chiarito, però mi faccia finire in un altro modo, perché se no mi faccia finire l'intervista sociale in un altro modo, più tranquillamente, rilassiamoci un attimo. Sul vostro sito rilassati, ma la nostra vita è molto difficile, i nostri bambini continuano a morire. E quindi? La situazione che vive una famiglia rom è drammatica in Italia. Per un rom la vita non è come la vita che ha un italiano. Ogni persona ha necessità di mangiare. Va bene, Zunisi, questo l'abbiamo capito. Lei continua a dire questo, abbiamo capito. A questo punto chiuderei l'intervista, basta. Mi pare che non abbiamo altro da dirci. Grazie, buona serata, buona estate. Andiamo allora con Marino, che ci chiama da Pavia. Buonasera. Sì, buonasera. Volevo provare a dire il personaggio, se possibile. Sì, vai, così almeno... Per me, guarda, era Federica Pellegrini, che ha compiuto un'ottima performance. Certo, ha raggiunto un traguardo, questo era l'indizio, lei ha vinto... Sì. Che gara ha vinto? Agli europei, però diciamo che lei ha contribuito in modo fondamentale alla, a questa guerra. La staffetta. Però non era lei a cui avevamo pensato, non era Federica, che è stata, diciamo, grandissima campionessa, lo è ancora, è stata personaggio di tantissime copertine tante volte. Questa volta non avevamo pensato a lei. Grazie. Andiamo con Andrea, che chiama da Venezia. Buonasera. Buonasera. Io volevo esprimere semplicemente un concetto riguardo a quello che è stato detto sul cartello affitto sulla porta d'ingresso. Ma prima di tutto, secondo me, non è assolutamente discriminatorio un cartello del genere, perché suggerire di non fare l'elemosina a delle persone che francamente ho trovato anch'io spesso e volentieri nei supermercati, a cui ho offerto del cibo o delle bevande che mi è stato rifiutato perché volevano solo soldi, allora se hanno un problema di fame non possono desiderare soltanto soldi, se non sbaglio. In secondo luogo vorrei cercare di capire con che capacità il signor, mi sfugge il cognome con cui abbiamo parlato, con cui ho parlato prima, Zuinisi si chiama, il rappresentante della comunità, esatto, Rom, Sinti e l'altra etnia, è in grado di dire che non c'è capacità di relazionarsi, capacità di e voglia di integrare queste popolazioni quando sono loro per primi a non volersi integrare. Io conosco un sacco di Rom che hanno, sono stanziali, come diceva lui, e che hanno delle abitazioni e che non hanno nessun tipo di difficoltà a trovare queste abitazioni, sì, a comprarle, a contrarre dei mutui, certo, e quant'altro. Dall'altra parte c'è un'incapacità e una non volontà, perché per comodità e per benefici ottenuti, di non integrarsi con la popolazione. Guardi, italiana. Quantomeno è un incontro alla pari, cioè da parte loro c'è una difficoltà ad abbandonare la vita nomade per fare qualcos'altro, che ne dica Zuinisi, non è un passaggio semplice. Vogliono vivere come nomadi, possono farlo, però è inutile chiedere l'integrazione. L'integrazione viene offerta in vari modi e poi non si arriva da nessuna parte. Un incontro alla pari tra questo e anche l'incapacità forse delle nostre amministrazioni di fare delle cose concrete. Addirittura lui accusava la Caritas, è andato giù la linea con Andrea, di, e la Croce Rossa, accuse pesanti, altre associazioni, di fare il business economico sui Rom, e questa è un'altra faccia della medaglia sulla quale non so, vediamo stasera se viene fuori qualcosa. Miriam da Verona, buonasera. Sì, buonasera, io ho assistito un po' alla trasmissione, l'ho ascoltata, sì. Allora volevo dire solo una cosa, a me sembra che l'Italia, il governo italiano, si preoccupa più di integrare i vari Rom, i vari extracomunitari, e se ne frega altamente del popolo italiano. Allora, io credo che bisognerebbe cominciare a fare... Non diciamo una politica... però fesserie, Miriam, cioè scusi, perché non è che... Adesso non esageriamo dall'altra parte. Sì. No, non si tratta di esagerare. Cosa ha fatto il governo italiano negli ultimi mesi per integrare i Rom? Non lo so, io ho citato delle cose che riguardano... 24 milioni del comune di Roma, voglio dire, non sono pochi, no? Se 24 milioni venissero utilizzati per aiutare le persone che rimangono senza lavoro e che vanno a fare la fila alla Caritas... No, lei ha detto il governo, queste sono cose che fanno i comuni, perché devono gestire poi il problema che c'è dei Rom, e qualcosa devono fare, poi sbagliano a fare probabilmente. Sì. Il patto di stabilità è una norma che è stata stabilita dal governo, quindi è il governo che gestisce poi i soldi che vengono dati ai comuni, quindi non stiamo a prenderci in giro. Io quello che dico è, gli italiani per primi hanno delle grosse difficoltà, quindi cominciamo ad aiutare il popolo italiano, anche perché parliamoci chiaro, questi qua dell'integrazione se ne strafregano. Perché io non ho mai visto un italiano che è rimasto senza lavoro andare a fare l'elemosina davanti ad un supermercato, perché comunque è una cosa tipica dei Rom, così come è tipico degli extracomunitari, e su questo non voglio assolutamente essere razzista, anzi tutt'altro, però aspettarsi che siano gli altri ad aiutarli, no? Il famoso assistenzialismo. Vabbè, Miriam, guardi, lei però cade nel coso gli extracomunitari aspettano, ma quali extracomunitari? Ci sono extracomunitari volenterosi che lavorano e che si fanno un mazzo così, ce ne sono altri, così come gli italiani, intendiamoci. I Rom poi è una cosa ancora particolare, però generalizzare così non serve a niente. Grazie Miriam, buona serata. Antonio dalla provincia di Modena. Sì, buonasera. Ascolti, il personaggio per me è Balotelli perché? È perché negli ultimi anni ha fatto avanti dall'Italia, è andato prima in Inghilterra, dall'Inter in Inghilterra. Ma il traguardo che ha raggiunto sarebbe che cosa? Il trasferimento a Liverpool? Il numero di trasferimenti fatto. I soldi che ha incassato. Va bene, non era lui a cui pensavamo, Antonio, eh? Non era lui, grazie. Adesso tra poco magari diamo anche un altro indizio. Marco da Firenze, buonasera. Marco? Marco non c'è. Allora Paola da Firenze. Sì, buonasera. Buonasera. Senta, io volevo intervenire riguardo al problema Rom. Il signore dell'associazione ha fatto riferimento a Firenze. E io, in base a, proprio all'esperienza che ho sulla scuola di Firenze, sì, vorrei dirle al signore che non è la realtà quella che sta dicendo lui. Perché i bambini rom sono molto accettati nelle scuole di Firenze, vengono portati a scuola dai fulmini del comune, non pagano la mensa, vengono dati i grembiulini, gli astucci, il materiale scolastico. Lei è un insegnante, se ho capito bene? No, io non sono un insegnante, io sono una mamma. Sì. Che vivo molto da vicino la realtà scolastica e io ho anch'io problemi in casa, ho il marito che non lavora, però io pago tutto. Pago la mensa per intero, pago tutto, il pulmino se ce n'è bisogno, tutto. Cioè, a noi non ci viene dato nessun tipo d'aiuto. L'integrazione, secondo me, è quando siamo sullo stesso piano. Cioè, si può parlare di integrazione quando si partecipa. È giusto la casa, però la casa bisogna avere la possibilità di comprarla. A Firenze sono stati fatti i campi nomadi, sono state fatte delle case in legno. Sì. Sì, sì, ma gliel'ho detto al rappresentante dei Rom, ho fatto un piccolo elenco provvisorio di spese che sono state fatte quindi diciamo poi l'idea che si fa il cittadino è si spendono i soldi anche per integrare i Rom in tutte le città italiane e poi i risultati non ci sono. Allora forse c'è qualcosa che non va anche dall'altra parte, forse non ci siamo capiti fino in fondo. Marco da Firenze, buonasera. No, adesso mi senti? L'abbiamo recuperato, sì, eccolo qua. Sì, allora senza generalizzare, sì. Cioè, quello ha detto il rappresentante dei Rom è irritante. Io faccio il tassista a Firenze, ho vissuto la situazione della stazione e due giorni fa è successo e si sono lavati nella fontana di Via Nazionale, hanno steso i panni in Piazza dell'Unità Italiana, mi sono entrato in casa, mi hanno rubato. E se tu vieni a Firenze e mi cerchi, ti vuoi, ti lascio la sigla, ti porto a vedere il campo dell'Olmatello, ti porto a vedere il campo di Firenze. Firenze Sud, le case non in legno, non sì. In legno, in Marco, ma a te sono entrati in casa e come fai a sapere che erano zingari? Ma io sai, vivo in una casa di 64 metri quadri, però mi hanno buttato tutta all'aria, mi hanno rovesciato gli aerei. Ma come fai a sapere che erano loro? Ma dici, guarda, è una tecnica che loro hanno, loro entrano, cercano solo e esclusivamente oro e soldi, se li trovano bene, perché sono, io non lo so, sono codificati, hanno dei sistemi tutti loro, ma poi solo loro rubano in questa maniera. Ti seguono, se si accorgono che te sei assente per un certo periodo di tempo ti entrano in casa. Io vivo purtroppo in una casa che è facilmente accessibile, se tu vieni io ti faccio vedere quello che stanno facendo e ho assistito a delle cose aberranti all'interno della stazione di Firenze. Per esempio? Vessati, turisti, ti racconto questo, turisti vessati, tipo ti prendo le valigie, te le porto prima che chiudessero l'accesso ai binari a fuori, sì, i finti facchini. E ti hanno portato via 50 euro, quando magari il tassista te li monta a macchina e te li porta per 7,50 euro a destinazione caricandogli anche bagagli. Ma adesso che hanno messo le barriere funziona meglio ora, la cosa ora, a Firenze? Ora è un pochino meglio, si sono spostati sui binari regionali, stanno rompendo le scatole praticamente ai poveracci. Però lì ci sono i pendolari, bravo, i poveracci, quindi c'è meno da pescare. Ora mi dispiace classificarli con questo termine, diciamo le persone normali, va bene, come bene, me prendono capisce, il treno, sì. Cioè la vita non era offensivo, cioè sì, che quel rappresentante dei Rom è irritante, cioè lo sai che mi sono stancato con tutto questo tempo, d'essere, ti racconto questa velocissimamente poi via, sì. Io facevo assistenza. Sono entrato una volta per una chiamata d'urgenza alla ambulanza in un campo Rom, quello dell'Olmatello. Cioè facevi assistenza in un'ambulanza, sì, come volontario? Sì, ambulanza, facevi volontario. Quello che era più avanzato tecnologicamente, ti giuro Alessio, l'ho visto dentro quelle tende, senza considerare i motorini rubati, le macchine rubate. Si arrabbiò moltissimo anche il dottore, faceva assistenza, disse sì. Perché io devo venire a dare assistenza a questa gente quando io prendo, allora prendeva 1.400.000 lire in mese e questi mi sputano in faccia. faccia se venga a dargli assistenza. Quello l'ho vissuto io, non sono balle, e sfido chiunque a smentirle. Va bene, Marco, grazie, buona serata. Claudio da Bergamo. Claudio, eccolo sì, qua. Pronto, sì. Buonasera, sono Rizzi. Io partecipo per dare il credo, sì, il nome del personaggio della settimana. Vediamo, vediamo. Sakori ma poi... Come, scusi? Sakori ma poi, che è personaggio giapponese che ha compiuto 111 anni. Beh, sicuramente questo signore ha raggiunto un traguardo che più di questo è difficile. Ma chi è, l'uomo più vecchio al mondo? Esattamente, è questo, credo. Anche perché lei, avendo detto appunto che ha raggiunto un ottimo traguardo, sì, credo che sarebbe il traguardo che noi tutti vorremmo. Certo, Claudio, in effetti è una di quelle volte in cui verrebbe voglia di darle il premio ad honorem, ma anche se non era lui a cui avevamo pensato, non era Sakori, ma poi è un'altra persona. Comunque grazie per aver partecipato. Oh, anche stasera in palio mettiamo i biglietti per le mostre di Andy Warhol a Roma e del FAI, Origine delle Sensazioni, Villa Panza a Varese, anche a seconda dell'origine geografica dell'ascoltatore, quindi il più vicino vince il biglietto più vicino, quello che se la giudica naturalmente. Dove fuggi? Dove fuggi? Se lo saranno sicuramente domandato anche i lavoratori che si sono presentati ai cancelli della Italia Alimentari SPA di Pagliano, in provincia di Frosinone, la mattina quando sono andati al lavoro e non c'era più nulla, non c'era più la fabbrica, non c'erano più i macchinari, tutto smontato perché la fabbrica ha chiuso. Comunicazione senza alcuna comunicazione, senza preavviso. Dunque è successo ancora, in attesa di avere anche la versione dell'azienda. Noi ne parliamo con i lavoratori e in particolare con Stefano Morea, che è segretario generale della FLAI CGL di Frosinone. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, questo è quello che hanno scritto i giornali. Esagerazione o realtà? Cioè, senza alcun preavviso, di punto in bianco, fabbrica chiusa. Realtà, il martedì mattina si presentano alcuni manutentori al lavoro e trovano le linee più importanti dello stabilimento smontate e portate via a nottetempo. Perché, insomma, è chiaro che un'azienda può anche decidere di chiudere contrattando con i sindacati, buone uscite, mobilità, sono cose che purtroppo succedono per varie ragioni, ma così di punto in bianco, senza preavviso, è strano quantomeno. Cioè, voi non avevate avuto nessuna comunicazione? Assolutamente, ai noi succede questo, inaspettato invece dal gruppo Cremonini, che è un colosso. Fare una cosa del genere, la comunicazione è stata successiva, è stata anticipata la comunicazione di cessazione dell'attività produttiva, ma questo subito dopo aver smontato i macchinari e averli portati via. Quindi voi la comunicazione quando l'avete ricevuta? L'abbiamo ricevuto anticipata, quindi in via informale, nel tardo pomeriggio di mercoledì 20. Quindi comunque dopo? Assolutamente dopo, lo stabilimento stava chiudendo proprio il 19, ha chiuso per ferie, non c'era nessuna avvisaglia, si stavano facendo piccoli lavori di manutenzione, sì. Gli ultimi incontri non avevano lasciato presagire alcunché. Ma si trattava, prego. No, volevo aggiungere semplicemente che tra l'altro è un'azienda che non fa ricorso ad ammortizzatori sociali, non ha fatto ricorso negli ultimi anni, sicuramente quasi. Ecco, appunto, è questa la cosa che uno si chiede: un'azienda in difficoltà, un'azienda con poche commesse, in crisi, per cui ha dovuto ricorrere, appunto, come diceva lei, però ci ha già risposto no a cassa integrazione, mobilità, eccetera. Fino ad allora non c'erano stati segnali di crisi, a quello che dice lei. C'erano stati dei piccoli picchi di calo di produzione, come insomma ormai siamo abituati, sì, a vivere in questi momenti all'interno delle aziende che seguiamo, ma niente che avesse suscitato neanche più dell'utilizzo di qualche giorno, di qualche ora di permesso. Ma e quindi lei come se lo spiega? Cioè cos'è una delocalizzazione improvvisa? Che cos'è? Che cosa è successo? Non è una delocalizzazione, ma è una riorganizzazione, almeno dalle poche righe, sì, che possiamo leggere dalla comunicazione, una concentrazione dell'attività produttiva in altri siti produttivi italiani. Da quello che posso capire dalle quattro righe che parlo. Ma i lavoratori hanno avuto delle proposte per continuare a lavorare in questi altri siti, per esempio? Noi ad oggi non abbiamo nient'altro che la comunicazione ufficiale. È previsto un incontro per il 27, speriamo un incontro dove troveremo innanzitutto la giustificazione all'atto increscioso che è avvenuto, ma anche... Lei è molto generoso anche nella terminologia, un atto increscioso è anche di più, cioè trovarsi la fabbrica chiusa senza lavoro all'improvviso, penso che altro che increscioso avranno pensato i dipendenti. È stato una rapina, l'impatto peggiore sui dipendenti, sui lavoratori dipendenti non è stato neanche la chiusura dello stabilimento, ma la modalità. La cosa che più ha sconvolto le famiglie, i lavoratori, alcuni che hanno quasi 40 anni di vita lavorativa presso quello stabilimento, è stata la modalità. Il trovarsi da un giorno all'altro lo stabilimento smontato senza che neanche nessuno li avesse avvisati. Attenzione, come di solito si fa, cari lavoratori, ci sono una serie di difficoltà, avremmo intenzione, sì, assolutamente di questo non c'è stato niente. Perché non si tratta di un rallentamento di produzione, che ne so, dovuto all'embargo della Russia per i prodotti alimentari italiani. Non so se quello stabilimento produce cose che vengono esportate, sto buttando lì una cosa a caso. Perché sono stati tolti i macchinari proprio. Cioè, e quindi... Sono state tolte le linee, sì. Il calo di commesse che sì, ci sono stati dei piccoli cali legati al mercato italiano, loro comunque il mercato russo lo vivono dall'interno, visto che hanno più di qualche attività in quei territori. E niente di tutto questo, solamente un'assurda storia. Speriamo di essere smentiti quando farete questo incontro il 27, che ci siano delle spiegazioni e delle soluzioni anche per il lavoro di queste persone e di un sito produttivo che, fino a prova contraria, non aveva grossi problemi di produzione, appunto, di sovrapproduzione. Assolutamente no. Speriamo di risolvere al meglio la situazione. Resta il fatto che comunque è un atto quasi criminale che ha sconvolto un intero territorio, un territorio che comunque già ha le sue crisi e le sue difficoltà. L'unico stabilimento che comunque riusciva a lavorare a tempo pieno, facendo ore di straordinario, quindi vuol dire che si lavorava in quello stabilimento, di punto in bianco smonta i macchinari. È un fatto veramente, certo, fuori passare dagli straordinari a chiudere e smontare uno stabilimento è davvero incomprensibile. Vedremo, speriamo che ci siano parole e fatti anche che chiariscano. Grazie intanto Morea, buona serata. Buona serata, grazie. In bocca al lupo a tutte le persone coinvolte in questa vicenda. Andiamo con Antonella che chiama da Roma. Buonasera. Buonasera. Prego. Buonasera, io vi ascolto sempre, anche durante il tragitto dal lavoro a casa. Io lavoro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Volevo, lo preciso perché ho sentito il signore dell'Associazione dei Rom dire delle baggianate assurde. Allora, le premetto che i Rom... che io chiamo zingari perché sono zingari. Vabbè, adesso non riacuiamo questa polemica, perché sennò mi richiama Zuinisi e mi fa quarto d'ora di... No, ci parlo io con Zuinisi, sì, poi gli mando una mail a Zuinisi. Però è così, allora deve sapere che non è vero che in Italia c'è lo 0,2% di popolazione rom, sono molti di più, e non è vero che sono i più poveri, perché qui dove abito io, dalle zone di Cinecittà, sì, sulla Romanina ci sono delle ville abitate dai rom con dei macchinoni enormi parcheggiati e non pagano luce, gas, non pagano... Ho una persona che lavora in un call center, non pagano niente, neanche. Però lei ha detto che lavora al Presidenza del Consiglio e i dati che ha dato Zuinisi sono sbagliati. Cioè lui ha detto che ci sono molti, molti meno rom in Italia che negli altri paesi. Non è vero. E hanno un tasso di integrazione, per esempio scolastico, molto più basso. per colpa nostra, dice lui. Non è assolutamente vero, non è assolutamente vero, le farò avere, proprio perché lavoro lì, le relazioni. Benissimo. Che, dove ci sono tutti i dati, e le dico anche un'altra cosa, le scuole, gli asili, le scuole elementari, loro hanno la precedenza su tutti. Sì. Anche su chi ha moglie, marito, quattro figli e lavora uno solo, hanno la precedenza su tutto. Negli ospedali uguale, se un rom, chiamiamolo rom, va in ospedale, ha la precedenza su tutti. Loro sono abituati, lei sta a Milano, io le dico solo una cosa, lei deve venire alla stazione Termini. La gente ha paura di andare alla stazione Termini. Sì, vabbè, oggi mi volete portare dappertutto. Zuinisi mi voleva portare davanti al supermercato, lei davanti alla stazione Termini. No, io sto qua a Milano. Io vado anche al supermercato e vedo quello che succede. Va bene, questo lo vediamo tutti. Grazie Antonella, buona serata. Andiamo con Loris da Milano. Buonasera. Sì, buonasera. Io sono stato sindaco di un comune che ha ancora, per carità, non è che i problemi sono stati risolti, però che mi sì. ha presentato un problema di integrazione di un campo finto in questo caso, e che devo dire, applicando il concetto della delocalizzazione dell'intervento, cioè di occupare, di risolvere il problema dal punto di vista locale e con la collaborazione di un'associazione che si chiama Apertamente, che è stata veramente molto efficace, abbiamo portato avanti dei progetti molto buoni, progetti che si sono però interrotti a causa di una legislazione farraginosa, burocratica, dei soliti burocrati che si mettono tra i piedi pur di evitare i problemi, o perlomeno con la scusa di rispettare la legalità e le minuscola, creano problemi che si potrebbero benissimo evitare. La storia è abbastanza semplice, io sono stato eletto da una maggioranza di centrodestra, quindi per me non era facile, avevo anche la Lega peraltro tra quelli che hanno partecipato alla mia elezione, quindi non era facile porsi con le mani dentro al problema e cercare di risolverlo, però abbiamo attuato delle politiche di inserimento lavorativo sfruttando... E come sono andate, a buon fine? Assolutamente sì. Bene. Però le spiego... Vedi che qualcosa si fa? Che ne dica Zuinisi? No. Si fa, si prova, insomma. Lo abbiamo fatto a livello locale, sì. utilizzando un'associazione sul territorio, il cui presidente praticamente ogni volta che c'era un problema veniva nel mio ufficio e insieme a me direttamente cercavamo di risolvere. Tutto è andato bene quando si mette in mezzo la burocrazia. Vabbè, questo però è un altro problema. Sì, Loris, la saluto perché siamo quasi in addirittura arrivo del giornale radio. Abbiamo il tempo ancora per dare un altro indizio. Allora, per il gioco, il personaggio della settimana, abbiamo detto che è un personaggio che ha raggiunto un importante traguardo. Aggiungiamo anche che è una notizia in rosa. E vediamo un ultimo ascoltatore, Eugenio da Firenze. Buonasera. Buonasera a tutti. Prego. Oh, prima cosa, se Pole rimanga tutto l'anno lei, va bene? Io Polo, io posso, se sì può. Sì. Ecco, bene. Ma allora non dipende da me, prego Eugenio, abbiamo 10 secondi. Bene, Brigitte Bardot. Ah, come personaggio, Brigitte Bardot? Sì, no, non è lei, non è lei, anche se in effetti è in rosa. Vabbè, poi glielo spiego dopo perché, quando indovinano, giornale radio. Sì, può fare! L'attualità. Anche d'estate. Beach on the beach, sotto solo la pelle bruci, sotto la luna ancora di più. Quando fuori flexi superman, senza fare love non si può stare. Oh baby. Beach on the beach, femmine e uomini vanno a caccia, di occhi neri e di occhi blu. Quante signorine very nice fanno uscire pazzo tutti i boys. L'estate qua, you know, per farci innamorare ad ogni età, you know, frenare un poco e poi lasciarsi andare, you know, in fondo sai che quando torni back alla città tutto finirà, mannaggia, you know. E questa sera con Beach on the Beach andiamo nel Salento, in provincia di Lecce, a Guagnano, dove questa sera verrà consegnato il premio Terre del Negro Amaro al sindaco di Verona Flavio Tosi, tra qualche polemica però. Buonasera Tosi. Sì, buonasera a voi. Ci risentiamo, non la lasciamo mai in pace. Oh, beh, non è un problema. Lei è già sul posto? Sì, per la consegna. Giro per tappe fra aziende e amici, perché è una terra che conosco e che amo da molti anni. Fra aziende, noi abbiamo poco fa parlato del caso dell'azienda di Frosinone che è sparita la notte di Ferragosto, dell'alimentare italiana, una consociata della Cremonini, non si sa se è sparita per paura di qualche sindacato o perché sono partiti con i soldi nella valigia in tasca, non si sa, comunque è un momentaccio per le aziende. Senta, però noi parliamo di cose un po' più leggere, perché intanto cos'è il premio Terre del Negro Amaro? È un premio che viene, diciamo, attribuito a una serie di figure, non è un unico premio, ma diciamo lo scopo dell'evento è quello di promuovere il Negro Amaro. Questa è una terra che da anni a questa parte ha affinato moltissimo la produzione vitivinicola, e quindi una volta i vini del sud venivano usati per tagliare i vini del nord. Adesso invece hanno una loro grande capacità produttiva, vincono premi internazionali, sì. E quindi, diciamo, giustamente fanno delle attività di promozione dei prodotti di questo territorio, perché appunto è chiaro che oltre a produrre delle eccellenze bisogna anche promuoverle, e quindi il premio Terre del Negro Amaro serve per promuovere il Negro Amaro. A parte adesso, poi ci spiegherà anche perché, non so se gliel'hanno già detto, perché lei ha ottenuto questo premio nell'estremo sud, un sindaco del nord, però non c'è nulla di strano. La cosa che è successa è che Paola Turci, la cantante, non vuol salire sul palco con lei perché dice che lei è razzista, c'è un'accusa di razzismo che pende in tribunale, di cui io fra l'altro non sapevo nulla. Ma non è che è un'accusa di razzismo, è una condanna di per razzismo a 2 mesi pena sospesa, sì. Per parte del 2001 raccolsi le firme contro un campo nomo di abusivo, e quindi sono stato a questo procedimento penale che ha avuto ben 5 gradi di giudizio, perché si andò in Cassazione, poi è tornato in appello, poi insomma, è stato poi di nuovo in Cassazione, e quindi è un fatto vecchio su una fesseria, ripeto, una raccolta. Cioè lei aveva raccolto delle firme contro un campo nomo di abusivo. Su questo si è inserito un procedimento penale per violazione della legge Mancino, perché c'era chi riteneva che i toni utilizzati per questa raccolta di firme fossero eccessivi. Erano eccessivi quei toni, secondo lei? Ma guardi, io credo che era eccessivo il fatto che l'amministrazione comunale, che poi è stata mandata via dagli elettori, in realtà sono stato eletto io, a tollerasse che ci fosse un campo nomo di abusivo sul suo territorio, facesse finta di niente. Quindi niente, è finita lì. Però questa cosa, ma lei ci ha parlato poi con Paola Turci? No, ovviamente no. No, io ci ho parlato. Io, l'ha presa male questa cosa, che no, ci sono state altre defezioni, anche credo anche Dario Stefano. Io non l'ho presa male, perché del PD Sella abbiamo ospitato Paola Turci come amministratore comunale, la ospiteremo ancora negli spazi di amministrazione comunale, in eventi, sì, promossi amministrazione comunale, perché uno può pensarla anche diversamente da te. Si sa che Paola Turci è dichiara, insomma, basta andare a guardare i post, è dichiaratamente di sinistra, è una sostenitrice di Nicky Vendola. Quindi lei dice, però, non c'è niente di strano, niente di nuovo, siamo su fronti politici opposti, e quindi c'è un po' di bagarre. È diverso l'atteggiamento, nel senso che lei discrimina, io no, nel senso che io, ripeto, l'abbiamo fatta vedere. Cioè la vera razzista è lei, la vera razzista è Paola Turci. Della discriminazione, uno può pensarla politicamente, ma siccome io non vado lì come Flavio Tosi, persona Flavio Tosi, né come componente della Lega, ma come sindaco della città che ospita il Vinitaly e che è del comune di Verona, che è il primo socio della Fiera di Verona, perché la Fiera di Verona come primo socio del comune di Verona, e quindi c'è un rapporto solidissimo tra, sì, questo territorio, i territori veronesi, con il Vinitaly, con il sottoscritto in particolare, perché sono venuto più volte a visitare e a omaggiare le aziende vitivinicole del Salento, E quindi per questo non è che sia una cosa nuova o strana questo premio, perché nasce da un rapporto solidissimo e consolidato. Senta, ma c'è stata, perché oggi il Corriere scrive che c'è stata una specie di ripicca, perché l'Amia, che è un'azienda veronese, ha tolto la sponsorizzazione a un concerto dei 99 Posse. E sembra, qualcuno l'ha letto quasi come una ripicca di Verona nei confronti, diciamo, del fronte, come vogliamo definirlo? Turci, 99 Posse, Sel. Ma guardi, io mi sono confrontato con gli organizzatori, anche perché quell'evento si tiene grazie al comune e solo grazie al comune, altrimenti non si terrebbe mai. Ma si terrà, tra l'altro? Certo, si terrà, sì. Io adesso non so gli organizzatori cosa decideranno di fare. Io li ho invitati a mantenere il concerto di 99 Posse, perché nonostante io la pensi in maniera assolutamente opposta agli inviti alla violenza, perché fanno anche inviti alla violenza nelle loro canzoni, 99 Posse. A lei non piacciono i 99 Posse? Non mi piacciono l'impostazione che hanno, però hanno diritto di esprimerla. Io non li andrò ad ascoltare, non mi piacciono, però hanno diritto di esprimerla. E quindi gli organizzatori, siccome il comune appoggia sensibilmente questa manifestazione, perché te ripeto, senza il comune Verona non si terrebbe mai. E quindi ho detto, potete pure tenere il concerto, ci sarà un po' di polemica politica che parlerei perché, a Ferragosto. No, perché il Corriere scrive che il presidente di questa azienda è stato capogruppo della sua lista nel 2007, quindi viene ricostruito un filo diretto, come dire, è in qualche modo Tosi che ha voluto togliere questa sponsorizzazione. Se il comune non volesse che si facesse quell'evento non si fa, se fosse il comune, perché quell'evento si svolge solo grazie al comune. Quindi non ci sarà questa sponsorizzazione, ma ci sarà l'evento. Non ci sarà una delle aziende sponsor, sarà una delle aziende sponsor, ma ripeto, siccome la gran parte dell'aiuto e del sostegno viene direttamente dal comune, e poi ci sono altre società partecipate dal comune che sponsorizzano la manifestazione, quindi c'è solo una delle aziende che ha tolto il patrocinio, perché il presidente di questa azienda, che è un caro amico personale, fra l'altro, ideologicamente è legato alla destra, in passato ha subito una persecuzione anche peggiore rispetto a episodi di questo tipo per le sue idee politiche, e quindi capisco la sua posizione. Però non è che vi siete parlati in qualche modo su questa cosa qua, no, è una sua scelta autonoma. È una scelta autonoma, ripeto, una scelta autonoma che io rispetto, perché capisco, ripeto, conosco il passato politico del presidente e quindi lo rispetto per questo, però il comune va avanti comunque, sostiene l'iniziativa, e ho detto agli organizzatori dell'evento che per me il concerto 99 Posse lo possono tranquillamente mantenere. Cioè, lei non piacciono, però comunque invita, come dire, tutti alla tranquillità, alla calma, andare al concerto. Abbiamo concesso l'arena qualche mese fa gratuitamente, che non è che la si dà tanto spesso gratuitamente, a padre Adelex, Alex Zanotelli, che rispetto al signor Tosi la pensa in maniera diametralmente opposta su mille cose, però è giusto che abbia lo modo e lo spazio per dire quello che pensa. No, anche perché sarebbe strano che non si desse lo spazio nell'arena perché uno la pensa diversamente dal sindaco. Appunto, questo, esatto. Appunto. Senta, il liberismo e la democrazia vogliono che ognuno, anzi soprattutto chi non la pensa come te, deve essere tutelato. Senta, siamo partiti questa sera con la vicenda del supermercato di Catania che ha tolto, che ha messo un cartello invitando la gente a non dare l'elemosina ai Rom, perché fanno 60-80. Sono dei professionisti dell'elemosina. Abbiamo intervistato un rappresentante che negava questa cosa, che un rappresentante dei Rom, che loro vivessero di elemosina, lamentando che in Italia non riescono a integrarsi, eccetera, eccetera. Lei quel cartello come lo giudica? Perché si diceva gli zingari, l'avrebbe fatto togliere quel cartello o l'avrebbe lasciato? No, non l'avrei fatto togliere, perché una larga parte, che non vuol dire tutti, ma una larga parte di quelle popolazioni, che non è una questione né di etnia né di nazionalità, è un modo di vivere diverso. Loro rifiutano l'integrazione, sono loro che la rifiutano. Scelgono di vivere nei campi o comunque in modo abusivo e irregolare, perché preferiscono non essere identificati, avere una regolarità come tutti gli altri cittadini. E scelgono di vivere di elemosina o di espedienti o peggio spesso anche di reati, e quindi è una scelta loro che, ripeto, non è né etnica né di nazionalità, ma è un modo di vivere che se loro scelgono, rifiutando l'integrazione e generando quel cartello che non dice nient'altro che la verità. Senta. Che spesso sono professionisti dell'elemosina, e quindi dargli dei soldi è profondamente sbagliato, perché chi ha bisogno di aiuto si rivolge alla Caritas, si rivolge ai servizi sociali e viene aiutato in maniera corretta in base alle esigenze, perché altrimenti c'è gente che veramente ha un reddito più alto di un lavoratore dipendente. Senta, adesso la lasciamo al palco del premio Terre del Negramaro. A che ora inizia? Tra poco sarà? No, inizia alle 9. Alle 9, con calma, allora c'è tempo, però noi poi prima chiudiamo. No, però per altri appuntamenti anche prima. Per chiudere questa vicenda, no? Un modo simpatico potrebbe essere, io la butto lì, poi se vuole, perché non lancia lei una sfida, adesso va di moda, a lanciarsi una secchiata d'acqua a favore della SLA, invitando poi a partecipare Paola Turci, i 99 Posse e magari anche Dario Stefano di Sel. Potrebbe essere. Potrebbe essere un modo per chiuderla, no? No, ma anche perché quando si tratta di, come stasera, che si tratta di una questione che è fra istituzioni e la politica non c'entra, quando ci sono delle finalità che non sono quelle della politica, e quindi sicuramente quando si parla di là si parla addirittura di una finalità, una cosa seria, vera, certo, di cose importanti, al di là delle polemiche che hanno le gambe corte, non devono esserne polemiche, delle divisioni, tutt'altro. Allora lo faccia, se lo faccio lo deve dire per primi a noi, perché a questo punto se lo fa e la cosa è nata qua dentro diventa anche divertente e noi vogliamo saperlo, eh? Facciamo bene, girare la notizia, dai. D'accordo, volentieri. Grazie Tosi, buona serata. A lei di nuovo, grazie. Arrivederci, buona serata, buona estate, e aspettiamo a questo punto, lui ha detto che lo fa, chissà se è stato preso così alla sprovvista, in fondo è solo una secchiata d'acqua gelata, una donazione, bastano anche 100 euro, 50 euro, il sindaco di Verona può dare anche qualcosa di più secondo me, e invitare chi vuole lui, però in quel caso si invita Paola Turci, così la chiudiamo anche 99 Posse, tutti amici, Verona, Napoli, e andiamo avanti così. Oh, adesso, prima della borsa abbiamo tempo ancora, Francesco da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Allora, io telefono per il personaggio misterioso. Sì. Allora, io ritengo sia la iraniana Mariam Mirzakhani, vincitrice della medaglia Fields per la matematica, una sorta di Nobel per la matematica, ed è la prima donna. Ah, che bello. Però questa notizia di quando è di questa settimana? O è un po' più vecchiotta, o mi pare? No, del 17 agosto. Sì, no, voglio dire, io ho il Sole 24 Ore del 17 agosto, il domenicale. Sì, sì, sì. Insomma, siamo a pelo, in effetti. No, però non avevamo pensato a lei, Francesco. È bella perché anche lei, ovviamente, ha raggiunto un traguardo importante, notizie in rosa. Tac, aggiungiamo un altro indizio. Che facciamo, redazione? Aspettiamo un attimo, se no è troppo facile. Facciamo la borsa, regia, o facciamo un altro ascoltatore? Ascoltatore, Alberto da Vicenza. Buongiorno. Buonasera. Salve, io volevo intervenire riguardo la questione sui Rom. Sì. Volevo dire che io sono fortemente a favore di tutte queste politiche a favore dell'integrazione, e secondo me non basta dare a disposizione una corriera, un autobus per far andare tre bambini a scuola. E cosa ci vuole? Ci vuole l'integrazione. Se noi pensiamo in che realtà cresce un bambino Rom, discriminato fin da quando ha 5-6 anni, dei suoi coetanei stessi, è evidente che lui crescerà mentalmente con un odio nei confronti delle persone normali, diciamo, e quindi non ci si può limitare pensando che basti investire dei soldi risistemando dei campi Rom, e quindi non si può fare nulla, però, da quello che dice Alberto. No, è sbagliato pensare che non si possa fare nulla, il fatto è che è una questione più culturale, secondo me, che cioè noi sbagliamo con l'approccio culturale nei confronti di queste minoranze. E qual è l'approccio giusto invece, secondo lei? Beh, bisognerebbe fare un approccio che intanto non discrimini fin da quando sono bambini le persone che arrivano da certe realtà, insomma. Ma discrimini in che senso? Scusi, io non so, non ho avuto molto a che fare in vita mia con i Rom, però non penso di avere mai discriminato nessuno. No, ma io dico, se un bambino Rom di 5-6 anni all'interno delle scuole, sì, ad esempio, ha cresciuto in un campo Rom dove comunque sarà cresciuto nella... Ma lei pensa veramente che viene discriminato un bambino Rom che va a scuola dai suoi coetanei? Certamente. Dai suoi coetanei, è sicuro di quello che dice? Ma mi scusi, le scuole... Ma lei ha presente, ma lei ha figli, Alberto? No, io sono abbastanza giovane, però io l'ho vissuto... Guardi, le assicuro che i bambini non discriminano niente. I bambini sanno essere crudeli puntando il dito su quello grasso, quello magro, su quello alto, quello basso e quello Rom. No. Però questa è la vita normale dei bambini. Bambini che discriminano non esiste, guardi. Non esiste. È una forma di bullismo anche questo. Cioè, noi se lo guardiamo, dobbiamo vederlo anche dal punto di vista più ampio. Va bene, Alberto, ho capito. Non so esattamente quale sia questo punto di vista, però lei ha cercato di dirlo. Grazie. I conservanti, amico, fanno male. Te vanno manna puro all'ospedale. La gente però è sempre capocciona e su ste cose proprio non ragiona. Ma che non ce lo sai la roba ghiotta. Adesso arriviamo, ritornello, aspettiamo ritornello. Già precotta, il piatto fatto in casa non se batte, de certo è meglio delle scatolette. Meglio perderci più tempo che mangiare le porcherie. E si cucini, puoi star sicuro che non ti avveleni. Allora, tra qualche settimana riaprono le scuole dove vanno i nostri bambini. Cosa si mangia nelle scuole, nelle mense? Cosa si mangia? Quali sono i prodotti? È importante, adesso che andiamo incontro all'Expo, ci sono molti più controlli. Sappiate che viene chiuso ogni giorno un locale che vende cibo per frodi, contraffazioni alimentari. Ci sono problemi da questo punto di vista. Allora è giusto, se vogliamo fare l'Expo, capire davvero cosa si mangia sulle tavole italiane. E un tema è quello della scuola, sta molto a cuore a un gruppo che è nato a Napoli, che si chiama Ripensa la Mensa, e noi abbiamo in collegamento Donatella Chiodo. Buonasera. Buonasera, buonasera. Mamma, credo. Sì, assolutamente, mamma. Di quanti bambini? Di Alice, che vanno? Di una bambina. Di Alice. Che scuola fa? Alice l'anno prossimo andrà in seconda elementare e frequenta una scuola a tempo pieno da quando insomma ha iniziato ad andare a scuola, cioè dalla materna, quindi da quando aveva 3 anni. E insomma è una cosa importante seguire questa problematica, certo. Non solo quella, però Insomma, però è importante perché spesso si sottovaluta un po' questo tema, si dà per scontato che tutto vada bene, che insomma le mense ci siano dei controlli eccetera eccetera, però cosa si mangia, l'alimentazione specialmente dei bambini, è ovvio che è una cosa importante. Voi avete avuto anche un incontro, avete fatto delle richieste al comune per esprimere diciamo le vostre richieste, le vostre preoccupazioni. Quali sono queste la vostra iniziativa? In cosa consiste? La nostra iniziativa, allora, fermo restando che nasce sotto la spinta della problematica che penso tutti gli italiani conoscano, della terra dei fuochi, per cui questa grande attenzione, no, non solo mediatica ma anche insomma, della salute, no, dei bambini e non solo, però è anche diciamo, nata perché il Comune di Napoli quest'anno dovrà riscrivere il bando per l'assegnazione del servizio di refezione collettiva, perché diciamo, 2 anni fa un servizio mensa, sì, sicuramente con delle innovazioni, perché già prevedeva il chilometro zero, prevedeva lo scodellamento, insomma prevedeva una serie di innovazioni che sono state comunque negative per i nostri bambini, però diciamo che ci sta spazio, come è sperabile che sia, di miglioramento. Noi abbiamo chiesto al comune, sì, confrontandoci con loro, ma anche con la ASL Napoli 1 che effettua controlli, ma anche con l'Università Federico II di Napoli, di muoversi su 3 direttrici. La prima è sulla tracciabilità degli alimenti, quindi la possibilità di non solo sapere da dove provengano, ma di accedere alla documentazione in modo veloce. Perché al momento non è possibile. Cioè, no, faccio l'esempio, no, non so, in una mensa si mangia come frutto la mela e non si sa da dove viene questa mela, oppure si mangia il cavolfiore e non è possibile sapere. Voi dite, no, vogliamo sapere la tracciabilità, l'origine. Sì, allora, a parte che è un'informazione che deve essere fornita per alcuni cibi, è già presente, tipo le, sì, carni, il pesce, di meno per le verdure, però è la tempistica, cioè noi abbiamo chiesto, inizio anno abbiamo fatto richiesta alla scuola di sapere, di avere accesso ai documenti, la scuola chiede alla municipalità, chiede alla ditta assegnataria del servizio e poi la catena ritorna all'indietro, quindi in realtà ci vogliono mesi prima di sapere e avere queste informazioni, perché l'abbiamo sperimentato, e quindi la nostra richiesta è di avere la tracciabilità dei prodotti e di averla in dei tempi diciamo decorosi. Sì. La seconda cosa è la possibilità di effettuare dei controlli più stringenti, anche prevedendo la partecipazione dei genitori. Sì. Anche altri comuni si sono mossi, l'abbiamo chiesto anche noi al comune, che in realtà si sta adoperando affinché venga adottato un regolamento che preveda diversi livelli di controllo a livello istituzionale ma anche dentro le scuole. E poi l'ultima diciamo, tematica che noi abbiamo affrontato con il Comune e la CASL sono delle variazioni del menù, perché benché ci siano state delle attenzioni importanti da parte della ASL rispetto ai menù che oggi vengono proposti ai nostri bambini nel Comune di Napoli, perché il Comune di Napoli ha la più alta percentuale di obesità in tutta Italia. Ecco, sì, questa è una cosa importante. Assolutamente. Hanno previsto, non so, delle insalate, la vela. Sì, ma chi è che stabilisce poi il menù che si mangia nelle scuole? L'ASL? L'ASL Napoli 1. Sì, e voi chiedete di mangiare meno carne, per esempio, dite, se ho letto bene. Sì, abbiamo chiesto di eliminare la carne rossa, di utilizzare maggiormente i legumi. Questo chiaramente non, e noi abbiamo tenuto a dirlo sia all'ASL Napoli 1 sia al Comune di Napoli, non diciamo perché sposiamo una determinata dieta, siamo vegani, vegetariano, vabbè, l'ha detto anche Veronesi, Umberto Veronesi, credo ci si possa fidare, bisogna mangiare più pesce, meno carne. Sì, ma al di là di questo noi abbiamo chiesto, abbiamo interessato l'Università di Napoli, la Federico II, e abbiamo chiesto di darci delle indicazioni per migliorare un menù che era già buono, quindi comunque partiamo sicuramente da una situazione diciamo positiva, però migliorabile. Allora abbiamo chiesto all'Università, dateci delle indicazioni su come migliorare, e le abbiamo sottoposte alla loro attenzione. In più abbiamo chiesto di aumentare la percentuale di biologico, di aumentare la percentuale di DOP e IGP, cioè abbiamo chiesto di garantirci comunque anche sulla qualità del cibo. Alcune cose probabilmente verranno accettate, vedremo, perché comunque il bando non è ancora uscito, quindi noi vedremo quanto è stato recepito e quanto no. Senta, ma questa cosa però, che a Napoli c'è un'alta incidenza di obesità. È un tema però che sarà anche la quantità di cibo che si mangia, ci sarà anche delle abitudini sbagliate alimentari nelle famiglie. Ma sicuramente, ma anche perché la mensa, basta andare al mare a volte e vedere le tavolate di lasagne che si fanno all'ora di pranzo, è una follia. Però, le dico una cosa, che la mensa, il servizio mensa non ha soltanto un obiettivo nutritivo e nutrizionale, ma anche educativo, per cui i bambini che mangiano nelle mense, questo in tutta Italia, hanno la necessità di confrontarsi anche con cibi differenti per migliorare le loro abitudini alimentari, fermo restando che ce ne sono delle altre. E poi in più sarebbe corretto, perché è previsto anche dalle linee nazionali per l'alimentazione, che vengano attivati una serie di progetti educativi anche per le famiglie. Cioè, se è vero che è un sistema educativo a 360 gradi, anche la parte dell'alimentazione deve essere curata e bisogna arrivare a monte. Questa è una cosa che noi vogliamo fare. E speriamo, perché io l'ho detto, fatto in premessa, insomma, il tema, io ho una bambina di 3 anni, quindi comincio adesso a entrare nelle ansie genitoriali, però è importante per tutti, per un bambino nella fase della formazione sicuramente ancora di più, e quindi è giusto puntare l'attenzione. È un modo anche intelligente per avvicinarsi a questo grande evento Expo, di cui per ora abbiamo solo capito che è un po' complicato, che c'è stata un po' di corruzione nella costruzione delle cose, non abbiamo capito molto altro, per ammissione del ministro Martina stesso. Quindi cominciamo ad addentrarci. Ripensa la mensa è un gruppo su Facebook, quindi invitiamo tutti quelli che sono interessati ad aderire, si può entrare per dare suggerimenti, capire come vi state muovendo voi, che su questo siete, non dico all'avanguardia, ma insomma ci state lavorando. Complimenti, Donatella. Missione mensa nelle scuole, questo è il nostro obiettivo, in tutte le scuole di Napoli, ma anche in altre. Una commissione mensa nelle scuole, giusto? Genitori, insegnanti, certo. Per vedere, valutare, capire. Grazie Donatella, buona serata e in bocca al lupo. Ripensa la mensa, li trovate su Facebook. Sono le 19:55, tra poco avremo i titoli, adesso andiamo con qualche ascoltatore. Abbiamo Marco da Milano, buonasera. Sì, buonasera, sono prego. Un tassista nella provincia di Milano. Mi ha preceduto un collega di Firenze. Io sono un po' esterrefatto perché il rappresentante dell'etnia Rom, non so se vive nel paese delle fate o che interesse abbia, perché questo buonismo, questo eccessivo buonismo che la gente tuttora vede in giro, specialmente nelle province, dove i Rom, non è così come dice. Allora, abbaranzate di bollate. Scusi, ho un ritorno della voce. Noi la sentiamo benissimo, Marco. Ah, perfetto. Sì. Abbaranzate di bollate, dove c'è un campo Rom, che io come tassista sono stato. Allora, macchinoni da paura. case prefabbricate bellissime. Quelle però magari donate dal comune. Vabbè, facciamo così. I macchinoni non li giustifico. Davanti al nostro posteggio taxi, che non dico quale, che noi conosciamo tutti questi rom, al pomeriggio c'è lo smercio delle collane d'oro, gli smartphone, e questa tutta non roba rubata, lei dice, tutta certo. Roba rubata, questa non è povertà. Beh certo, se uno è povero è difficile che abbia un macchinone di lusso o che abbia in mano iPad e roba d'oro. È chiaro che quelle sono cose che derivano dai furti smerciati, e questa è anche una realtà. Io per quello ho detto al rappresentante dei Rom che secondo me ha sbagliato l'atteggiamento in cui fare l'intervista, cioè affrontare l'argomento e non fare finta di nulla. E per cercare di capire se è un problema che si vuole risolvere o se è una cosa che si vuole negare come realtà, e credo che questo sia sbagliato e che non convenga a nessuno se non forse a chi la nega. Grazie Marco, grazie. Andiamo con Giacomo da Bologna, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Anche io volevo ritornare sulla... anche io un ritorno in cuffia. Noi la sentiamo bene, la sentiamo benissimo. Adesso non c'è più. Senta, anche io volevo intervenire riguardo il discorso degli zingari. Sì, concordo con la maggior parte dei radioascoltatori sul discorso che in effetti è verissimo che hanno questi macchinoni, è verissimo che non bisogna contribuire all'accattonaggio, perché sono un'associazione organizzata proprio per questi scopi, oltre che per i furti, e chiunque sta ancora aspettando i famosi zingari che lavorano. Però io, secondo me, loro, dal loro punto di vista, fanno bene. Cioè, il problema non è individuarli come etnia dediti a commettere vari reati. Il problema è che dal loro punto di vista fanno anche bene, perché la giustizia in Italia non funziona e loro sanno benissimo di arrivare all'impunità, e fanno bene a fare come fanno dal loro punto di vista. Sì. Quindi d'altra parte, come sapendo, cioè, che fanno benissimo, se uno decide di voler vivere così fa benissimo, certo. Se uno invece chiede, come ha fatto Zunisi, di essere integrato e di voler fare una vita diversa, di trovare un lavoro, di andare a scuola eccetera, allora non dovrebbe vivere così. Certo, secondo che non dovrebbe me. Vivere così, ma anche secondo me non dovrebbe vivere così, cioè con i zingari, con i rom, con i sinti un po' meno, perché loro sono l'unica comunità di zingari in Italia che sono un po' integrati, hanno anche qualcuno che è riuscito a laurearsi, stanno nel veronese i sinti. Sì. Però, vabbè, parte, sì, qualcuno parte... che diciamo smentisce questo destino c'è. Indubbiamente, però sono casi isolati. Però guardi, io le lo dico da esperto del settore, perché mi capita invece anche a fare tutti i giorni. Però capita anche che a un italiano gli si viene a dire maltratta un bambino, e il bambino viene preso e portato via. A me è capitato di avere a che fare con una nomade che teneva il bambino, che avrà avuto 2 mesi, 3 mesi sotto il sole per quattro ore, e poi dovrei parlare con chi di dovere, ma fa parte della loro cultura. Cioè, questo modo di affrontare il discorso zingari secondo me è sbagliato. Ma cioè, da parte di chi, scusi, da parte di chi? Da parte di chi è sbagliato? Non ho capito. Da parte di chi deve avere a che fare con un problema come quello della cioè lei dice il comune, gli assistenti sociali sbagliano perché non ho capito, perché sbagliano? Perché da una parte, cioè, per gli italiani, per gli stranieri integrati, per esempio un minore che viene maltrattato viene subito segnalato agli assistenti sociali. Sì. Invece se è dei rom c'è comprensione, perché dice loro fanno così per cultura. Fa parte della loro cultura. No, questo è il ragionamento. La nostra è questa, bisogna rispettare le altre culture, però ci deve essere una cultura di riferimento. Bene Giacomo, lei ha ragione, io su questo sono d'accordo con lei. Poi non so dove le sarà capitato, se le sarà capitato, lei dice di così, di vedere questo, evidentemente. Andiamo allora con, fra poco, i titoli del TG, Massimiliano da Latina, buonasera. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Io volevo fare un intervento per quanto riguarda il governo che non sa come trovare le risorse finanziarie, ma di sprechi ce ne sono tanti. Io suggerisco che dare a Renzi, se si fa una camminata all'interno dei porti italiani, si vedono attaccate alle banchine motovedette della finanza, polizia, carabinieri, enti parco, guardia forestale, capitaneria di porto, marina, vigili urbani. Cioè, questi sono sprechi, perché cioè, si mettono d'accordo, il mare della Marina, della Capitaneria di Porto, basta, lasciamo una forza dell'ordine come la Guardia di Finanza che è sempre esistita sul mare per il controllo del territorio, e gli altri vengono messi da parte. La stessa cosa con il Corpo Forestale dello Stato. Per 100 anni c'è stato il Corpo Forestale dello Stato, funzionava tutto sulle nostre montagne, adesso è in diparco, come da montane, Corpi Forestali dello Stato. Ma questo da cosa dipende? Scusi Massimiliano, non ho capito, questo spreco e sovrapposizione, da cosa dipende? Dipende che la politica purtroppo ha dovuto creare tutti questi enti per i loro scopi, perché qua all'interno si sa come funziona. Sì. Però adesso sono tempi di vacche magre, almeno mi sembra che rispetto al passato questo che dice lei stia un po' diminuendo, cioè non lo vedo come un tema adesso di attualità, tutta questa ricchezza di corpi d'armata, come dice lei, a quello che leggiamo a livello di annunci ci sono più tagli che altro, poi ci saranno ancora degli sprechi, degli errori sicuramente da evitare. Grazie anche a lei, facciamo prima i titoli del TG, TG1. Il governo smentisce, le volontarie italiane rapite non sono nelle mani degli islamisti, il Pentagono valuta raid aerei sulla Siria. 5 Stelle a Renzi, non dialoghiamo con i terroristi, ma Foli è ucciso dall'imperialismo americano, critiche bipartisan, disgustosi. Caccia ai collaborazionisti a Gaza, Hamas giustizia 18 palestinesi, razzi contro raid, bimbo israeliano ucciso da un colpo di mortaio. Nel Catanese un padre accoltella le figlie e uccide la piccola di 12 anni, la moglie lo aveva lasciato fermato dai figli più grandi. Bronzi di Riace all'Expo di Milano 2015, troppo rischioso spostarli, dice la soprintendente di Reggio Calabria. Montecristo, un paradiso incontaminato, visita a numero chiuso, la storia dei due custodi, unici abitanti dell'isola. Pioggia di medaglie per gli azzurri del nuoto agli europei, 2 ori, Paltrinieri negli 800 stile libero e la 4% mista stile libero, bronzo per Detti, Leonardi, Ilaria Bianchi e nei tuffi argento per Noemi Batchi. Sentiamo anche un pochino dei titoli della 7, va? Quella americana contro i detenuti di Abu Ghraib. Le torture sui prigionieri iracheni da parte di soldati USA furono innescate dal desiderio di vendetta, dice, per gli attentati alle Torri Gemelle causati anche dall'imperialismo statunitense. Reazioni bipartisan, tesi disgustose. Durissimo attacco di Grillo contro Renzi, il leader 5 Stelle riappare con un video sul suo blog e si scaglia contro il Premier, dice il Premier che noi siamo coi terroristi, sono le schifezze dell'Ebetino, Presidente del Consiglio, che non è stato eletto da nessuno e non ha mantenuto nessuna delle sue promesse, afferma Grillo, il suo è il peggiore dei governi, noi dobbiamo riprenderci il paese, dice, dobbiamo governare. La CGIL diffonde intanto i numeri della cassa integrazione. Da gennaio a luglio ben 530.000 lavoratori a casa a 0 ore per un taglio del reddito pari a 2 miliardi e mezzo di euro, più di 4.700 euro in meno nelle buste paga di ciascuno. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Delrio esclude un intervento sulle pensioni o un altro blocco del contratto degli statali. La Russia sfida l'Ucraina, il convoglio con gli aiuti umanitari varca il confine senza la scorta della Croce Rossa Internazionale. Il governo di Kiev denuncia, è un'invasione, condanna unanime da USA e Unione Europea. Un atto gravissimo, dice la Farnesina, che parla di azione unilaterale e contraria al quadro normativo di sicurezza. Alle 21 riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Medio Oriente, dopo il fallimento della mediazione egiziana, si aggrava il conflitto tra Israele e Hamas, razzi contro Tel Aviv, pioggia di colpi di mortaio sul Negev, morto un bambino israeliano in un kibbutz, Netanyahu annuncia ritorsioni, richiamati 10.000 riservisti, 2 nuovi raid sulla striscia provocano la morte di 5 persone, Hamas giustizia in pubblico 18 palestinesi accusati di collaborazionismo. Allora, eccoci qua e andiamo con Ivan che chiama da Cuneo, buonasera. Anzi, prima mi faccia dare un altro indizio per il gioco del nostro personaggio della settimana. Abbiamo detto ha raggiunto un traguardo, una notizia in rosa, ha dimostrato che con la forza di volontà si può superare qualsiasi limite fisico. Adesso, visto che non l'avete ancora indovinato, ve la diamo facile. Aggiungete una consonante al cognome del nostro vice direttore. Questa è proprio regalata, così via. Prego. No, non ce l'ho. Non ce l'ha. Vabbè, qualcun altro ce l'avrà, guardi, sono sicuro. Ivan, prego. Guardi, io volevo soltanto condividere un pensiero riguardo a un settore economico dell'economia che tipicamente non viene minimamente calcolato quando si parla di anche di microeconomie, che è il settore della musica. No, faccio così perché noi abbiamo fatto... abbiamo contribuito quest'estate con una piccola polemica a proposito di un giovane violoncellista che ha risposto a un bando del Ministero dei Beni Culturali per lavorare gratis nei musei italiani, cioè suonare gratis. Lui ha detto no, gratis anche no. E Franceschini ha ritirato il bando. Questo... ha fatto benissimo. Sì. Lei che lavoro fa, Ivan? Suona? Lei un Allora, io suono da tanti anni, in questo momento faccio, oltre che il musicista, diciamo a tempo perso, faccio l'impiegato e l'imprenditore. Vabbè, quindi guadagna tre stipendi, complimenti. No, no, no, ho debiti per tre stipendi, ma ho solo uno stipendio effettivamente adesso. E qual è il suo strumento musicale? Il mio strumento è il basso elettrico. Ok. E ci sono, secondo me. Ma in che modo, però, mi scusi, esatto, bisognerebbe incentivare questa cosa della musica, sì, per rilanciare l'economia? Ecco, quello che intendevo dire è che esiste un vero e proprio microcosmo, un mondo sotterraneo che è fatto da migliaia e migliaia di musicisti che lottano ogni giorno per imparare a suonare bene il loro strumento, per esibirsi dal vivo. E se si va all'estero, in posti come per esempio Londra o Parigi, è facile imbattersi in locali dove si suona abitualmente in condizioni dignitose, non solo la musica delle cover che vanno per la maggiore, sì, ma anche la musica propria. Sì. La musica originale. E perché questo da noi non funziona, secondo lei? È un po' un cane che si morde la coda, nel senso che c'è un livello socioculturale, a mio avviso, molto basso, almeno per quanto riguarda la musica. Non si è abituati ad ascoltare... L'inglese hanno avuto i Beatles, noi i Pooh, certo, qualche differenza c'è. Sì, sì, sì, però ecco, per esempio, so che all'estero erano state fatte dei piccoli accorgimenti, come per esempio aiutare i locali che hanno la possibilità di far suonare dal vivo i gruppi. Sì. E praticamente detassandoli. E a patto per esempio che il gruppo finisse entro le 11 o le 11 e mezza di sera. Lei ha toccato un tasto delicatissimo, perché quando si parla di detassare, cioè di diminuire una qualunque entrata fiscale dello Stato italiano, cioè è una cosa, è quasi un miraggio, però ha ragione, cioè le tasse dovrebbero essere usate anche come incentivi, cioè chi fa, produce qualche cosa di buono e crea nuova economia facendo lavorare, aumentando i biglietti d'ingresso, aumentando il numero di birre vendute, andrebbe sicuramente incentivato. Perché non apre un'associazione, Ivan, per promuovere tutto questo in Italia? Ho aperto un birrificio, però. Bravo. Vabbè, ma allora vedi, l'imprenditore che è in lei intanto si è organizzato e fa le birre. Sì, sì, però... Birre artigianali? Il settore della musica. Ivan, ci tolga un attimo, non dico la sete perché non è possibile, la curiosità. Che birre fa lei? Noi facciamo birre a bassa fermentazione, stile tedesco, e totalmente artigianali. Non con cosa? Col mais o con qualcos'altro? Col malto? Con cosa? No, assolutamente, assolutamente. Il mais lo usano le multinazionali. Addirittura, cioè, così una dichiarazione di guerra al mais. No, non si fa la birra col mais, ho sbagliato? È un dato di fatto. È un dato di fatto, noi usiamo soltanto malto d'orzo, lupolo, acqua e lievito. Prodotto in Italia o all'estero? Allora, la materia prima purtroppo non è italiana. Vedi però, il mais c'è in Italia. Allora, esistono delle malterie al sud Italia che maltano per i grossi gruppi, sì, e quindi comprare malto da una malteria di quel tipo significa accettare lo standard qualitativo che decide qualcun Ma perché altro. Scusi, non fa una bella birra italiana col mais italiano senza andare a prendere il malto all'estero, così fa un prodotto tutto made in Italy. in questo momento non ci sta non dentro. Abbiamo ancora trovato un malto che abbia la resa che ci danno i migliori malti tedeschi. Va bene Ivan, in bocca al lupo, comunque grazie. Grazie a voi, complimenti per la trasmissione. Buona serata, grazie. Boschini, buonasera. Ciao, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Coordinatore dell'Associazione Comuni Virtuosi, ti piace la musica che abbiamo scelto per introdurti? Sì, molto. Beh, perché insomma, il messaggio è questo: se volete anche voi la vostra piccola quota di felicità, potete, anzi dovete, conoscere i Comuni Virtuosi, l'Associazione Comuni Virtuosi, e entrare magari, se siete un sindaco, a far parte, candidarvi o quantomeno partecipare al bando per il Premio Nazionale dei Comuni Virtuosi, un luogo dove la politica, le buone pratiche, chi conosce si può fare, lo sa, ne abbiamo parlato altre volte, esiste, vive e lotta insieme a noi. Marco? Sì, siamo arrivati all'ottava edizione, ogni anno scopriamo delle storie incredibili e quest'anno c'è ancora tempo fino al 31 agosto, quindi ci sono ancora un po' di giorni per tutti i sindaci italiani per mettere in mostra quello che fanno, non tanto per dire che sono i più bravi, ma proprio per condividere, perché poi il senso di questo premio e di tutta la nostra esperienza è questo: condividere le buone idee, farle circolare, fare in modo che si moltiplichino sul territorio. Certo, adesso ci spieghi per bene il bando e chi può partecipare, quali sono i criteri. Ricordiamo però anche una cosa, cioè questa dell'Associazione Comuni Virtuosi è un luogo nel quale i comuni, come dire, si mettono a nudo, si valutano tra di loro, si cerca con trasparenza di darsi degli standard, no? Per dire cos'è una buona amministrazione, cosa vuol dire amministrare bene un comune, e quindi si fa questa selezione anche. In che cosa consiste, ricordiamolo? Sì, l'associazione è nata con lo scopo di favorire la diffusione delle buone pratiche, partendo da un tema che è un tema gigantesco e attualissimo della sostenibilità ambientale, che poi si è allargato e declinato nelle pubbliche amministrazioni, negli oltre 8.000 comuni italiani, in tante declinazioni, quindi si va dalla gestione dell'energia alla gestione dei rifiuti, a come si tutela o meno il territorio e il paesaggio, a tutte le politiche che includano delle pratiche amministrative che includano appunto la partecipazione attiva dei cittadini, quindi tante linee di azione che sono poi, guarda caso, le linee di azione che abbiamo inserito nel bando del premio, per ognuna delle quali appunto i comuni possono raccontare, presentando i propri progetti, quello che stanno facendo, e una giuria esterna all'associazione, quindi indipendente dall'associazione, cercherà nella di quale a questo punto lo migliore. Posso dire, avete avuto anche l'incauta, diciamo, idea di inserire anche me, ma ci sono giornalisti e personalità molto importanti, Andrea Segrede dell'Università di Bologna, promotore Last Minute Market e tante altre cose, Luca Martinelli, Altra Economia, Andrea Bertaglio, Raffaele Rossi, importantissimo esperto di rifiuti in Italia. Cosa ti aspetti da questa edizione? E, insomma, rilanciamo la cosa. Cari amici enti locali all'ascolto, se pensate di poter aderire e essere fatti apposta per questo Premio Nazionale dei Comuni Virtuosi, andate sul sito e partecipate. L'ultimo appello, Marco, te lo faccio fare a te. Sì, il sito è www.comunivirtuosi.org. Mi aspetto, io ovviamente man mano che arrivano i progetti do una sbirciatina e devo dire che ho già visto alcune novità. Intanto finalmente partecipano le grandi città, alcune grandi città. Questa italiane. È una svolta importante, eh? Assolutamente sì, siamo molto contenti di questo. Vedremo poi se i progetti saranno all'altezza, però il fatto che partecipino le grandi città è finalmente il segno di un cambiamento che piano piano, dopo 9 anni, stiamo portando avanti. Ci sono molti comuni del sud, altra cosa importante per noi, perché dimostriamo una volta di più che il sud non è soltanto quello che viene raccontato dai media generali, ma anche qualche cosa di bello, di positivo, di costruttivo, e ci sono tante piccole curiosità, tanti progetti che poi non svegliamo adesso, ma ci risentiamo e ne parliamo alla premiazione di settembre. Senti, io ti faccio una domanda, puoi anche rispondere non so, non rispondo, perché fra l'altro non è molto a tema con quello che fate voi Comuni Virtuosi. Noi siamo partendo dal occupandoci della questione dei Rom, di questo cartello posto davanti al supermercato a Catania contro l'elemosina, perché dà fastidio ai clienti, e siamo andati affrontando il tema dell'integrazione, cioè molti comuni spendono tanti soldi però poi in progetti, campi Rom, e spesso non si vedono i risultati. Non è che per caso hai qualche buona pratica nascosta nella vostra rete anche su questo? Ti ripeto, puoi anche dire non so, però io te la butto lì. Bellissimo, meraviglioso che sto raccontando proprio sì. Adesso in queste settimane per il prossimo libro, che è il progetto del Comune di Novellara. Che è un progetto di comunità, proprio un comune in provincia di Reggio Emilia dove per 10 anni si è fatta integrazione, non con progetti faraonici ma nella quotidianità, che è la cosa più difficile, più complicata, che richiede tempo, lentezza, umiltà e capacità di condivisione. Lì c'è una fortissima componente di immigrazione, di 50 nazionalità diverse, quindi con tutta la complessità che una roba del genere può voler dire a livello di integrazione nella scuola, sì. Nel mondo del lavoro, nella comunità. Ecco, lì sono riusciti a fare integrazione. Volendo si può fare, però con un cambiamento che parte da appunto azioni quotidiane. Tu però ecco, hai detto una cosa importante, non con progetti faraonici ma con un lavoro di partecipazione, anche in allegria, di volontà di risolvere il problema, che va avanti negli anni, non con gli annunci o con appunto i progetti faraonici, come per esempio nel campo dei Rom, i mitici campi Rom, che poi spesso non contribuiscono a risolvere un bel nulla. Grazie Marco Boschini. L'ultimo invito: andare sul sito dell'Associazione Comuni Virtuosi, agli enti locali all'ascolto, per dare la propria partecipazione al premio nazionale. Buona serata a tutti, ci sentiamo lunedì prossimo, e da parte nostra a tutti un saluto, un augurio di buon weekend da me, Alessio Maurizi, ma dalla redazione Andrea Piana, Lorenzo Nespoli, Camilla Tomadini, Marco Lombardo, da Fabio Cantadori in regia, grandissimo, e poi dal nostro centralino Rosa Longobardo e Micol Santini, grandissimi anche loro. Ciao a tutti, buon weekend, a lunedì, ciao.